Questa è dedicata a te perché è con te che vivo. Perché sei tu che mi colori la vita di positivo. Convivo con un sentimento limpido e infinito che mi dà la forza di scrivere quel che scrivo. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Devo dirti quanto ti amo in sottofondo il giusto suono. Voglio parole dolci da sussurrarti piano piano. Quando sto lontano da te provo un dolore disumano. Sei l'unica persona che mi tratta in modo sincero. Solo con te sono me stesso davvero. Guarderei il tuo sorriso per un anno intero. Ti prego dimmi dove nascondi il tuo mistero. Se non avessi niente mi basteresti tu per vivere la vita e stare sempre a testa in su. Tutto il resto già lo sai che non mi servirebbe più. Niente Ritz WZ o WZ Crew. Sei tu, la mia regina che mi guida nella notte. Solo tu, te lo ripeto anche se l'ho già detto almeno 100 volte. Sei tu, la mia regina che mi guida nella notte. Solo tu, te lo ripeto anche se l'ho già detto almeno 100 volte. Ti guardo mentre ti avvicini e quando ti allontani. Mi piace da morire quando bacio le tue mani. O quando ci prendiamo a morsi come fossimo due cani. Mi dai la sicurezza che mi serve nel domani. Sensazioni indescrivibili se mi accarezzi. Se mi bacio a brividi in un secondo mi ipnotizzi. Mi sfiori con le dita sulla schiena e mi elettrizzi. Ogni movimento tuo è un sogno nuovo che realizzi. Nel letto sento già la tua mancanza e i sogni su di te fanno più corta la distanza. Che ci divide sono in crisi d'astinenza. Se non ti fai sentire muoio di tristezza. Hey, sento qualcosa che vibra dentro di me. Ogni volta che ti penso sto lontano da te. Tutte le mattine apro gli occhi e la mia mente vola. E già disegno con la lingua sul tuo corpo il bisogno di sentire il tuo respiro farsi corto. L'orologio dice che sono già le 3:28. Un altro giorno è già passato e non me ne sono ancora accorto. Sei tu, la mia regina che mi guida nella notte. Solo tu, te lo ripeto anche se l'ho già detto almeno 100 volte. Fuori piove, restiamo in cucina sorseggiando cioccolata calda come le tue labbra. E sei tu la mia regina. Per quest'amore mio voglio che tu mi stia sempre vicina. La vita mi colpisce a volte quasi a morte. Molte le botte, forse pure troppe. Nottate persa a piangere per ricucire toppe. Mi stringo a te di notte, già mi sento il doppio forte. No, non sono forte, sono debole. In questa vita inutile tu sei indispensabile. Queste parole non mi bastano a render visibile l'amore che da dentro mi fa sentire invincibile. Senza di te sono trasparente. Non troverò mai nessun'altra come te tra questa gente. Il mio amore per te è sempre crescente. Di tutto il resto ti giuro non me ne importa niente. Sei